Benvenuti al programma di ipnosi di massa prodotto da Canale 5. Vi passiamo il maggior esperto di ipnosi di massa, Fango Domagigers. La mia ipnosi di massa, state attenti, questa volta camminate testa bassa e tutti gli ostacoli che avete trovato nel vostro cammino saranno soltanto l'inizio del vostro declino, capito? La società come è messa che il primo errore che fai sia il declino dell'essere umano. Non mi sembra un po' troppo, un po' disumano per la specie? La sottigliezza che ha il diavolo non è tanto nel dettaglio quanto nella bellezza. Il deaglio è il simbolo di fierezza, ma della bellezza, non del taglio matematico. Rimaniamo qua in un burrito, sì, io e la mia tipa e un'altra che c'ho vicino, in un rito karmatico a tre. Sembra Marilyn Manson quando fai Dyson 3, o Charles Manson quando ha la sua setta. Rimango qui nella fossa, rimango in questa volta arso come se fosse un capostipite del mio astro. Astro nascente, vorrei morire morente sotto una stella perdente. Mentre cade, sapete perché? È meglio stare qui che nell'Ade. È meglio che avere il cervello rintronato davanti ai vostri televisori e essere fanfaronloni che non provano neanche una canzone. Sembrate Berlusconi. Fanfaronloni che sembrano Berlusconi. Aiaiaia, questa figa la sera non te la passa. Saggiolo un attimo. Sì, parliamo di Berlusconi un po' e queste frasi qui non dette dal resto della società. Iniziamo a pagare più IVA da quando c'era lui, o la fine di lui, non mi ricordo. Comunque a me sembrava la fine di ste cretine, perché poi è iniziato un secolo di un professore e poi di un dottore deficiente. Sì, Renzi, che non sa fare niente, nella società vale quanto il mio capper, uno sputo, tutti non lo vogliono votare, ma perché verrà votato nelle prossime elezioni elettorali? Sarà che il mio arsenale non fa più retriche, che fa soltanto robe isteriche, sarà che registro qualsiasi canzone mi venga in mente, questa farà parte di reprise sicuramente, sarà che la mia voglia di reppare supera quella di drogarmi, quindi non sono un addict, non sono un cazzo di netto, non sono un vegetale. Scendi un po' qua, scendi un po' qua, scendi un po' qua, scendi un po' qua, scendi sta canna. Sì, rogliamo una canna tutti assieme, votiamo tutti Pannella. Resistenza e guerra, sono un anarchico dentro, soprattutto quando un cannone in bocca lo sento. Bene, che sia una bella crema, un bel borbucca, un bel bazooka, non so, a me piace la droga, purtroppo, non tutta. Non sono un dipendente, ma nemmeno un deficiente da non scoprire che era l'unico modo per andare a guarire. Ecco perché, dottore, le spiego la mia esercitazione con una medica di mia invenzione. Siamo con la bomba Maradona in mano, nell'animo come se fosse un tulipano o qualcosa che debba fiorire. Questa notte qualcuno al mio posto dovrà morire. E non io, per favore, fate che ci siano più signore nel mio capezzale, per favore. Signore e signore, non sono un ladro nemmeno un dottore, che è peggio. Un voto Berlusconi, insomma, signor Fango Domagigers. Come fa di nome, signor? Io faccio Fango Domagigers e Lorenzo Maria D'Ariola. Punto. E sono soprattutto punto, come dice Marrakesh.